bentornati qui su Radio Wombat. Questa è Tonight Alive, la vostra, spero, trasmissione preferita del sabato sera. E stasera ci aspetta una serata veramente senza prigionieri, insieme a quel grandissimo che è Jeff Mills, autentico autentico mostro della seconda generazione di produttori di Detroit. Ovviamente non sto neanche a dirvelo, serata tutta incentrata sulla techno, e sulla techno anche di quella bella cattiva, anche se poi vedremo come gli inizi di quali saranno gli inizi del nostro Jeff Mills. Però intanto, come sempre, ricordiamo tutti i nostri indirizzi di Radio Wombat per poterci contattare, e sono ovviamente il sito sul quale mi starete ascoltando o avrete scaricato il podcast, che vi ricordo anche l'indirizzo, che è wombat.noblogs.org, o se no scriveteci sulla nostra mail, che è postawombat@insiberia.net, o per una risposta subito immediata contattateci attraverso i nostri canali social, che sono twitter.com/radiowombatfi, oppure su facebook.com/radio-wombat-firenze. Ed eccoci, torniamo qua a noi e andiamo a conoscere un po'. Spero, se starete ascoltando questa trasmissione, penso che lo conosciate già, Jeff Mills, e sapete quel grande che è e quello che ha fatto per la musica techno. Però magari andiamo a vedere un po' da dove arriva Jeff Mills, senza dimenticare, non vi avevo detto neanche, se non l'avete riconosciuta, la sigla di stasera è The Bells, singolo famosissimo di Jeff Mills, strasuonato in tutte le discoteche, fatto uscire nel 1995 per la sua Axis. E spero, non so se l'avevate riconosciuta, però anche questo è un pezzo che a cavallo tra gli anni 90 e i 2000 è stato suonato e strasuonato in tutte le discoteche del mondo, un vero successo. E Jeff Mills nasce a Detroit nel 1963, e ovviamente appartiene alla stessa generazione dei più illustri pionieri della techno, ovvero Juan Atkins, Derrick May e Kevin Sanderson. E ha iniziato da giovanissimo a mettere i dischi allenandosi alla console. Infatti, ancora neanche ventenne, venne subito notato dalla leggendaria emittente radiofonica detroitiana, ovvero la WJLB, ovvero la stazione radiofonica in cui trasmetteva la sua trasmissione il disc jockey Charles Johnson, che era noto a tutti come The Electrifying Mojo. E se avete già ascoltato le precedenti puntate sui detroitiani, avrete capito che veramente questo DJ dei primi anni 70, che trasmetteva su questa radio di Detroit, ha veramente influenzato un'intera generazione di produttori e DJ della città dei motori. Però ecco, Jeff Mills era talmente bravo ai piatti che appunto venne notato da quelli della WJLB, e ancora neanche ventenne, a 19 anni, fu subito invitato a trasmettere lì alla radio. E Jeff Mills in quel periodo selezionava praticamente, secondo lui, i migliori pezzi che mandava Electrifying Mojo la notte, e li mixava e li mixava tutti insieme usando gli scratch e il beat juggling dell'hip hop, ad esempio. Era un vero asso del turnablism, il giovane Jeff Mills, lo è tuttora, figuriamoci. E questi mixaggi erano fondamentalmente, contenevano di tutto, dalla new wave all'industrial, l'electropop, i primi esperimenti di techno detroitiana, appunto del trio delle meraviglie citato poco fa, ma anche l'house di Chicago era molto aperta come selezione. Però ecco, è solo nel 1988 che Jeff Mills si dedicherà alla vera e propria produzione musicale, e nel 1988 appunto insieme a Tony Sroc formano i Final Cut, un duo che inizialmente era più orientato verso la house, ma che poi ha avuto un'evoluzione verso sonorità più industrial. Però questo duo è durato un paio d'anni, perché sempre in quel periodo lì Jeff Mills incontrerà Mike Banks, e se avete appunto ascoltato l'ultima trasmissione sui DJ di 3 settimane fa, da lì nasce il mitico, il leggendario collettivo detroitiano degli Underground Resistance, insieme a Robert Hood. Però i due fondatori furono Mad Mike Banks e Jeff Mills, appunto, e Robert Hood arrivò subito dopo. Non vi sto a ripetere tutta la grande storia di Underground Resistance, per quello vi rimando appunto alla puntata scorsa. Però per i più distratti non posso non fare un riassuntino e farvi sentire un paio di pezzi di Underground Resistance, giusto per far capire da dove partiamo. Nella puntata proprio di 3 settimane fa avevo focalizzato più che altro la selezione dei dischi appunto su quelli più vicini a Mad Mike Banks, che ovviamente era il cuore e la testa sociale e politica del collettivo. E invece stasera vi farò ascoltare altri due pezzi del primo, appunto, della formazione iniziale di Underground Resistance. E non potevo che non scegliere un pezzo dal Waveform EP del 1991, vera pietra miliare della techno d'inizio anni 90, lo UR004, che è Beauty of Decay. È veramente un pezzone della Madonna, e qui si sente appunto il lato più milziano dell'Underground Resistance. E poi, sempre di quel 91, su Trezor, nella formazione a 3, Banks, Mills, Hood, vi farò sentire X101 con Sonic Destroyer. E almeno con questi due pezzi vi fate un po' un'idea da dove, cosa hanno significato Underground Resistance all'inizio degli anni 90. Wombat, Beauty of Decay e Sonic Destroyer. Ha voglia se si sente la mano pesa di Jeff in questo X101 uscito per Treasure nel 91. Appunto i primi due volumi, X101 e X102, sono accreditati, come vi dicevo, a tutti e tre in egual misura, Banks, Mills e Hood. E invece. E nel terzo volume, X-103, si dice è stato un po' il punto di rottura, perché da lì, infatti, in poi X-103 è accreditato ai soli Mills e Hood. Il sodalizio si rompe. E Jeff Mills prima e Robert Hood poi lasceranno, anche se solo formalmente, ma mai eticamente e anche sonoricamente, la grande nave di Mad Mike Banks, l'Underground Resistance. Comunque rimarranno sempre legati a doppio filo al leggendario collettivo di Detroit, che poi ha continuato ad assorbire produttori, continua tuttora ad assorbire grandi produttori dalla città dei motori. E appunto in quel 1992 Jeff Mills opta per una svolta più individualista, vuole sviluppare in modo migliore la sua sonorità, quello che sente di più i suoi suoni, e decide appunto di separarsi dal sodalizio con Mike Banks. E appunto dopo questa scissione decide di lasciare dalla nativa Detroit per trasferirsi nella città del vento, ovvero Chicago. E tra il 1992 e il 1994 farà uscire una serie leggendaria in tre volumi, che sono le Waveform Transmission. E il primo ed il terzo volume sono di Jeff Mills, mentre il secondo è accreditato al solo Hood sotto il moniker di The Vision. E dal primo volume delle Waveform Transmission vi voglio far sentire un grande capolavoro, quello che secondo me è il pezzo più bello del primo volume, ovvero Changes of Life, che è un campione di piano screpolato su una cassa di batteria elettronica 909 completamente distorta. E invece la spensierata piano house italiana di fine anni 80, che connota quel giro di piano lì, è presa proprio come un pretesto culturale, come un riferimento da cui partire, anche se poi sentirete che come tratterà questo giro di piano di piano house italiana, perché appunto tutto quello che tocca a Mills diventa inevitabilmente e istantaneamente millsiano. E in questo Waveform Transmission volume 1, nelle note di copertina c'è la dedica a cui è dedicato questo disco, ovvero a quelli che hanno capito che non è giusto guardare il futuro con gli occhi spaventati. E adesso sentiamoci Changes of Life, Jeff Mills, Wombat. una discreta trasformazione per questa piano house originale degli anni 80, ma che sotto la falce della cassa di Mills diventa completamente tutta un'altra cosa. E questo era appunto un estratto dal primo volume delle Waveform Transmission. Però il vero punto di rottura con il corpo techno avverrà con l'uscita del terzo volume delle Waveform Transmission nel 1994. Veramente un EP fondamentale per l'evoluzione della storia della techno, per una delle strade che aprirà per l'evoluzione del corpo techno da quel 94 a poi anche che si trascinerà fino ai giorni nostri. Un EP che forse andrebbe fatto che varrebbe la pena forse farlo sentire interamente, perché è pieno di perle, però ve ne ho scelte un paio che sono assolutamente, non potevo assolutamente non mettervi almeno, farvi sentire almeno queste due, che sono The Extremist, che è proprio il giusto esempio, l'esempio calzante del cambiamento che stava appunto accadendo dentro la forma techno. È proprio l'estremizzazione del suono delle macchine e anche del suono del futuro, ma portate in una dimensione di rito tribale percussivo. Anche questo è veramente un grandissimo classico, come lo è altrettanto Phase 4, che è proprio un altro pezzo che diventerà un archetipo di questa tipologia di techno. Una drammatica visione di fine Novecento, con scene inquadrate con un occhio nuovo, un suono tagliente come con la spietatezza di un cyborg. E appunto questo terzo volume è la chiave di volta su cui poi si reggerà tutto il rave sound. Infatti gran parte della scena rave si può dire che verrà irrimediabilmente trasformata da questo album fondamentale di Jeff Mills. E quindi adesso ascoltiamoci prima di Extremist e poi Phase 4, Jeff Mills, Radio Wombat. che ranza incredibile Phase 4, cioè, proprio puro Mill Sound, da veramente un EP e un suono da cui la techno poi non riuscirà più a tornare, cioè un certo tipo di techno non riuscirà più a tornare indietro. Però facciamo un passettino indietro, perché il vero centro della rivoluzione sonora di Jeff Mills parte nel 1992, quando la crea insieme a Robert Hood la propria etichetta discografica, la Axis Records, e collaborerà con la casa discografica Treasure di Berlino, di cui leggendario lab, appunto, del Treasure di Berlino, sarà anche resident per un'intera stagione. E in quella stagione, infatti, farà anche il party, la festa per l'apertura della sua etichetta Axis Records. La prima uscita della Axis sarà uno split insieme a Robert Hood, il Tranquilizer EP a nome H&M, fa abbastanza ridere, anche se, appunto, H&M, perché Hood e Mills, giustamente. Sarà l'imprinting del nuovo minimalismo su asettiche geometrie hard house. E poi un'altra uscita assolutamente imperdibile di queste prime della Axis è poi la numero 4, il Mecca EP del solo Jeff Mills del 1993, fatto uscire con il moniker, con il nome di Mills Art, che tra l'altro contiene anche il carnevale di suoni di Inner Self, oppure lo squarcio melodico di Yantra, o gli aspri minimalismi di Gateway of Zen, e poi soprattutto contiene Step to the Enchantment, uno che secondo me è uno dei pezzi più belli della techno tutta, proprio un Charleston laterali, un piglio bello rocky e un'andatura funk mossa a propulsione da due archi sgambi con sotto questo roccioso giro di basso. È veramente, secondo me, uno dei pezzi techno migliori almeno della seconda generazione di quel tipo di suono qui, di questo suono qui. E quindi non posso altro che farvi ascoltare, dopo averne tessuto le lodi, questa Step to the Enchantment, Jeff Mills, Tonight Alive, Radio Wombat. We'll be right back. E questa era Step to the Enchantment, sempre un Jeff Mills del 1993, contenuto nel Mecca EP a nome Mills Art. Ma questa sperimentazione poi continuerà ancora, sempre sulla sua etichetta Axis. E il passo successivo è l'Axis 08, che dal nome Cycle 30 del 1994. E sul lato A possiamo dire che è proprio il lato A, è un'apertura verso una certa ipotesi di jazz delle macchine del nuovo millennio, in pezzi come Man from Tomorrow, Vertical, Utopia. Pezzi come questi cantano proprio un'epica del cambio della pelle del corpo techno, incrociando ostinati sonori, sincope scientifiche e chiudendo con quegli archi iperreali che già sono stati usati in diversi pezzi techno, costruendone delle costruzioni dal sapore poi divenuto classico, ecco. E ascoltiamoci Vertical da questo Cycle 30 del 1994. Jeff Mills, Tonight Alive, Radio Wombat. veramente veramente molto elettronica questa Vertical, appunto la Axis è proprio improntata verso in questa sua fase, verso questa evoluzione, verso questo ambito appunto della musica elettronica, e questa prosecuzione della sperimentazione in ambito elettronico proseguirà poi appunto con l'Axis numero 10 del 1994, Growth, dove il corpo minimale viene ulteriormente asciugato da ogni pesantezza e proprio esibito nella sua essenzialità, nel suo minimalismo. E probabilmente questa strada verso questa elettronica minimale troverà il suo apice nell'anno successivo con l'Axis numero 12, a nome Mills Art, sarà intitolato Humana, veramente un pezzo, il pezzo portante, il pezzo da cui prende il nome l'EP, diventa subito uno dei classici del lato più atmosferico della techno di Detroit, con i suoi intricati ritmi latini su questa desolazione elettronica che renderà Jeff Mills affine a il Carl Craig a nome Psycho, ad esempio, o ai grandi Black Dog di Bites, che infatti sarà pura EDM questo genere musicale elettronico estremamente in voga tuttora, e esploso appunto a metà degli anni 90, e si può dire che Jeff Mills ha fatto un paio di gradini per la EDM, genere molto caro agli amici di 8 Hertz, che saluto. Non voglio fare come voi e rubare la scena alle altre trasmissioni, come avete fatto con l'hip hop, però scusate a 8 Hertz, però adesso è il momento di Humana, appunto pura EDM anni 90, Jeff Mills, Radio Wombat. Thank you. bellissima, ricorda, mi ricorda tantissimo le prime produzioni della Warp dei primi anni 90, con l'esplosione appunto di tutta quella scena elettronica. E anzi, potrei fare qui una dichiarazione improvvisa e in diretta, chiedendo la collaborazione di 8 Hertz, se in un futuro magari si potrebbe fare insieme una bella puntata back to back sull'etichetta Warp, che a me piace tantissimo, con appunto l'etichetta di Aphex Twin, di Square Pusher, dei già citati Black Dog, che non erano nient'altro che la prima formazione, che inizialmente erano in tre, poi subiranno uno split e diventeranno i Plaid, gruppo che ha scritto diverse pagine di elettronica di metà anni 90. Quindi 8 Hertz, se vuoi, se ci stai, io ci sono. Ma ritorniamo nei ranghi e andiamo verso il 1996, quando Jeff Mills aprirà una nuova etichetta che chiamerà Purpose Maker, dove metterà a fuoco il suo lato più carnale, il suo lato più carnale del suo suono, attraverso proprio questa ossessiva esplorazione della tribalità. Mentre se la Axis esplorava il versante dell'elettronica, questa Purpose Maker sarà proprio un'etichetta incentrata sul ritmo, sul dance floor, e proprio fatta apposta per i DJ e per far ballare la gente, con i suoi tipici loop ritmici e questi oscuri campioni incastrati come in una specie di straniante high energy degli anni 2000, diciamo. Qualcosa che può rimandare ai momenti più ipnotici e più ipnotici di certi rituali sociali, come ad esempio mi può venire in mente il ballo, la danza. E il compendio a tutta questa enorme miniera sonora è una delle prime uscite per la Purpose Maker, che sarà che è la Purpose Maker Compilation, che contiene buona parte delle prime produzioni dell'etichetta di Jeff Mills. E è proprio con la Purpose Maker che scatenerà l'intero filone della techno percussiva minimale. Cioè, da quando ha lanciato questo suono Jeff Mills sulla sua etichetta, poi anche questa sarà un'onda che all'interno del corpo techno che nessuno riuscirà a fermare, se non finendo inevitabilmente in un vicolo cieco, ecco. Infatti è proprio questo periodo, tra fine degli anni 90 e inizio degli anni 2000, che un'intera generazione di produttori verrà stregata e irrimediabilmente influenzata dai modi definitivi del suono milsiano. Mills è veramente una figura terminale della techno, infatti, perché come vi dicevo prima, tentando di ripetere questo schema di successo, porteranno questo suono ad un punto di non ritorno, ecco, che sarà solo la ripetizione di un cliché che si vende bene e che piace, e che continua tuttora nei nostri giorni sotto appunto quella grande etichetta che piace a molti, detta minimal, anche se voglio ricordare a tutti i giovani ascoltatori specialmente che la minimal, appunto, non quella di oggi, ma è stata creata da Jeff Mills, da Robert Hood e anche ovviamente dal canadese Richie Hawtin, che poi, appunto, con le sue etichette l'ha portata al successo mondiale e commerciale anche negli ultimi anni, molto commerciale, la ripetizione, appunto, di uno schema iniziato ormai quasi 20 anni fa. E appunto della Purpose Maker vi volevo far sentire un pezzo e ho scelto per voi questa Calypso Heights, giusto per farvi capire un po' di cosa stiamo parlando. Jeff Mills, Calypso High, Wombat. questa era Calypso High su Purpose Maker, sempre Jeff Mills. Però il buon Jeff, ecco, da ex studente di architettura, è sempre sempre stato anche un grande appassionato di cinema, oltre che di musica. E, ad esempio, 2001 Odissea nello spazio resta per lui un modello di arte totale, una cosa a cui ispirarsi. Infatti ne rifarà anche, sarà una delle tante colonne sonore che riprodurrà, e oltre a rifarne la sua interpretazione della colonna sonora come omaggio al grande Stanley Kubrick, nel 2001 farà una, a nome Mono, farà anche un'installazione scultorea dedicata appunto al film 2001 Odissea nello spazio, e che poi quest'opera è stata esposta al Sonar di Barcellona nel 2001. Però ecco, questa delle colonne sonore e del cinema è una delle ossessioni di Jeff Mills, se possiamo dire, perché infatti nel 2000 si imbarcherà nell'impresa di comporre la nuova colonna sonora per Metropolis di Fritz Lang, storico mitologico film degli anni 20, se non mi sbaglio, di Fritz Lang, e appunto ne ha risuonato tutta ha suonato live con le macchine, risonorizzando appunto Metropolis di Fritz Lang, e questa performance è stata anche poi registrata su CD e pubblicata. E appunto tutto questo, questa dedica anche al cinema, è anche uno dei tentativi per vedere di svincolarsi da questa immagine di mago della techno che ormai si porta addosso in quegli anni. Più che mago, forse ancora qualcosa di più spirituale addirittura, come un padre per certi ambiti della techno. E poi continuerà ovviamente tutta la sua opera di produzione. Però per questi anni 2000 volevo farvi ascoltare dal suo album Lifelike, edito su Axis nel 2000, sempre questo Jeff Mills molto, molto, molto legato all'ambito elettronico, con questa Global Factor. Jeff Mills, anno domini 2000, Wombat. Thank you. decisamente elettronico, uno dei tanti lati, delle tante facce produttive di Jeff Mills per questioni di tempo e spazio. Ho fatto una selezione così, ma ci sarebbero talmente tanti pezzi da farvi ascoltare, per anche solo farvi capire le varie sfaccettature che ha avuto l'evoluzione del suono milsiano, partendo da quello magari più legato all'elettronica, all'elettro della prima techno, poi portandola appunto all'estremizzazione minimale e velocistica, al suo lato tribale, al suo lato più elettronico, a tantissime le sonorizzazioni dei film. È veramente un artista techno a tutto tondo, anche se appunto, come dice, tenta di liberarsi di questa etichetta in tutti i modi. Però è veramente una figura assolutamente centrale per questo genere di musica. E, tra l'altro, negli ultimi anni, nel 2007, farà un'altra nuova colonna sonora, ne ha fatte diverse, tra l'altro, ne ha rifatte diverse, però nel 2007 sonorizzerà L'amore attraverso i secoli, il titolo italiano di Three Ages, il capolavoro muto di Buster Keaton, e appunto qui darà un altro suo tocco a un altro grandissimo capolavoro del film muto. E poi negli ultimi anni i suoi esperimenti approdano verso la riproposizione dei suoi grandi classici insieme a grandi orchestre sinfoniche, quindi la techno con la musica classica, diciamo, tra virgolette. È uno dei tanti lati, appunto, di Jeff Mills. Però, come vi stavo dicendo all'inizio, e qui ritorniamo al dunque, uno dei lati imprescindibili di Jeff Mills, di questo produttore, è proprio la sua attività da DJ, proprio sentirlo selezionare i dischi, i tagli che ne fa, vederlo, cioè sentirlo, ma anche vederlo è una cosa veramente incredibile, perché ha una tecnica DJistica, una conoscenza talmente profonda dei suoi dischi che vederlo suonare sembra quando suona con i vinili, sembra veramente che sia un ragno, quasi il corpo fermo e le braccia, che quando suona con i piatti suona sempre almeno con tre giradischi, ma poi insieme appunto ai piatti suona anche live tutte le macchine, generatori di onde di basso, batterie elettroniche, ha integrato tutto, e è proprio come una performance elettronica dal vivo. E appunto qui, per farvi rendere conto della tecnica milsiana, siamo arrivati al punto del DJ set della serata. E quello che ho scelto per voi stasera è veramente un DJ set storico di Jeff Mills del 1995, il Live at Liquid Room di Tokyo del 28 ottobre del 1995. È un DJ set, in questo caso dura poco più di un'ora, e pensate che in un'ora Jeff Mills piazza roba tipo 60 dischi. una roba tipo un minuto a pezzo, un puzzle, un gioco di incastri che connota veramente appunto una tecnica e una sapienza del turnablism veramente esagerata, che appunto, come diceva all'inizio, aveva inizialmente appreso e sviluppato sentendo i primi DJ hip hop, facendo quei tagli, e poi con il corso con l'esperienza appunto della carriera l'ha portato a veramente a dei livelli incredibili, a un'estremizzazione, a una velocità che in pochi veramente si possono permettere. E quindi non mi resta altro che farvi godere per questo leggendario DJ set di Jeff Mills. Ce lo ascoltiamo insieme e il vostro Dalai Lama vi darà appuntamento probabilmente alla prossima settimana. Forse sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva e poi ovviamente ci rivedremo e ci risentiremo puntualissimi, però ancora non è il momento di un arrivederci così lungo, ma solo a settimana prossima. E quindi un saluto da Radio Wombat, da Tonight Alive, e ciao, a sabato prossimo. Buon weekend a tutti. Jeff Mills, Radio Wombat.